sogno, illusione perfetta. Ora che sono sveglio e tu non sei qui, capisco che pensato che col tempo ti avrei trovata, ti avrei vista brillare tra tante e non avrei avuto dubbi, ma passano i giorni ed io mi accorgo che